Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Abbiamo fatto una buona prestazione contro il Belgio. Siamo partiti nella maniera migliore in questo europeo. Ma non abbiamo ancora fatto niente, né tantomeno ci siamo qualificati per gli ottavi, che è il nostro primo obiettivo. Quindi, come ho detto, piedi per terra, molto ben piantati. Cerchiamo di affrontare la partita domani nel migliore dei modi e cerchiamo di meritare la vittoria. Queste le parole di Antonio Conte, allenatore della nazionale, alla vigilia della partita di domani nella squadra azzurra. Stasera ci sono naturalmente altre squadre per Euro 2016, magari aggiorneremo su qualche risultato, però domani è naturalmente la partita che interessa. Ci dà almeno un po' di leggerezza questa cosa, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, perché oggi è stata una giornata particolarmente pesante, soprattutto per questo orribile delitto avvenuto in Gran Bretagna. 7 giorni dal referendum sulla Brexit, una giovane deputata laborista convinta europeista è stata assassinata da un uomo di 52 anni che l'ha colpita con colpi di pistola e poi anche con un coltello. Bisogna ancora capire qual è il movente, se effettivamente è legato alla campagna tesa relativa appunto alla Brexit oppure no, anche se pare, secondo alcuni testimoni, che abbia gridato quest'uomo Britain first, cioè prima di tutto la Gran Bretagna. Insomma, ne parleremo in modo approfondito, ci collegheremo con Londra, faremo anche un'analisi sulla Brexit, a che punto sta la campagna elettorale e anche quali potrebbero essere le conseguenze di un'eventuale uscita della Gran Bretagna dalla Brexit. Se ne parla molto in questi giorni e proprio a questo proposito vi chiedo, per interagire qui attraverso i vostri due canali privilegiati, che sono come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure se volete c'è il numero per WhatsApp e SMS, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Vi chiedo appunto, 7 giorni dal referendum, secondo voi che cosa potrebbe succedere se mai la Gran Bretagna uscisse dall'Unione Europea? La temete? La auspicate? Che riflessioni avete fatto finora? Che riflessioni state facendo su questo referendum del 23 giugno in Gran Bretagna? 349-238-6666, pagina Facebook Effetto Notte, poi altri argomenti, torneremo naturalmente anche sul calcio. Intanto i fatti principali. Gran Bretagna, la deputata laburista 41enne Jo Cox è stata uccisa a colpi di pistola e accoltellate, ha arrestato l'aggressore, un uomo di 52 anni che gridava Britain first. Brexit cresce nei sondaggi il numero dei favorevoli, Londra lancia appelli e poi il presidente della Commissione europea Juncker dice la Brexit è da evitare ma l'Unione europea non è in pericolo di vita. Gli incendi in Sicilia, emergenza nel Palermitano, chiuse autostrade, scuole evacuate, temperature record, si indaga sull'origine dolosa delle fiamme. Terrorismo, allarme della CIA, cresce il ruolo della Libia come base per le azioni ISIS e secondo l'antiterrorismo europeo, battuti in Siria e in Iraq, i fighters torneranno in Europa. Egyptair, recuperata la scatola nera con le voci registrate in cabina. Migranti, 13.000 persone soccorse in una sola settimana a fine maggio, Frontex chiede quindi più aiuti per l'Italia. Pensioni, l'Eurogruppo chiede di restringere i ritiri anticipati. Calcio, Euro 2016, il nostro obiettivo, dice Conte, lo avete sentito, è andare agli ottavi, per domani non penso di fare grandi cambiamenti. Partiamo quindi da quanto appunto è successo oggi in Gran Bretagna, 7 giorni dal referendum sulla Brexit, una deputata laburista di 41 anni, Jo Cox, convinta europeista, madre di 2 bambini, è stata aggredita a colpi di arma da fuoco e con un coltello per strada in pieno giorno nel villaggio di Birstall nel nord dell'Inghilterra. L'aggressore, un uomo di 52 anni che è stato arrestato, l'avrebbe colpita appunto al grido di Britain first e prima di tutto la Gran Bretagna. Una tragedia per il primo ministro britannico David Cameron, che ha detto era una parlamentare impegnata e premurosa, i miei pensieri vanno a suo marito e ai suoi 2 figli, così si legge in una nota diffusa da Downing Street. Il marito della parlamentare, Brendan Cox, ha scritto in un comunicato: l'odio non ha credo, non ha razza o religione, è velenoso, affermando che Joe, dice, credeva in un mondo migliore, ha combattuto per esso ogni giorno della sua vita con un'energia e un entusiasmo che avrebbero stremato molti e non avrebbe aggiunto rimpianti sulla sua vita, ha vissuto ogni giorno a pieno. Poi ci collegheremo per questo con Londra, vi dicevo, per avere dettagli, e torneremo anche sulla Brexit. I sondaggi danno in vantaggio coloro che sono favorevoli all'uscita del Regno Unito dall'Europa. Voi cosa pensate? Che riflessioni state facendo sulla Brexit e sull'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione Europea? 349 238 6666 oppure scrivete le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E intanto si apprende che la Svizzera deve ufficialmente ritirare la domanda di adesione all'Unione Europea inoltrata 22 anni fa. Questo è quanto ha deciso il Consiglio degli Stati, che è la Camera Alta del Parlamento svizzero, approvando una mozione in questo senso di Lukas Reimann del partito di destra UDC, già accolta dal Consiglio nazionale. E poi in Italia la Sicilia in fiamme, emergenza in particolare nel Palermitano, con autostrade chiuse, scuole evacuate, temperature record fino a 45-46 gradi. Si indaga sull'origine dolosa delle fiamme, ma poi cercheremo di sapere come evolve la situazione collegandoci direttamente con la Sicilia. Parliamo anche di terrorismo, perché il numero uno dell'antiterrorismo europeo, De Kerchove, ha detto che si prevede che entro un anno l'ISIS in Siria e in Iraq sia del tutto distrutto grazie all'azione dell'alleanza. E però i fighters, foreign fighters europei, torneranno nell'Unione. De Kerchove ha invitato pertanto ad essere pronti, mettendo in guardia rispetto a organizzazioni come quelle salafite che tentano di reclutare i profughi siriani. Dalla CIA intanto arriva l'allarme sull'addestramento ISIS di possibili attentatori contro l'Occidente e l'avvertimento che lo Stato, il sedicente Stato Islamico, punterà su tattiche di guerriglia mentre cresce il ruolo della Libia come base per le azioni dell'ISIS. Immigrazione: 34 persone, tra cui 20 bambini, sono morte nel tentativo di attraversare il deserto del Sahara, e quanto riferiscono le autorità del Niger, secondo cui le vittime erano dirette in Europa. Fine maggio, oltre 13.000 persone sono state salvate nel Mediterraneo centrale in una sola settimana, il totale più alto mai riportato nell'area. Questi sono i dati di Frontex. A Bruxelles ostentano ottimismo. Eugenio Ambrosi, direttore di OIM Europe, alle giornate europee per lo sviluppo della Commissione europea, prevede un numero di arrivi di migranti in Europa nel 2016 pari al 2015. I dati diffusi gli danno ragione. Le richieste d'asilo in Europa sono in calo. Nel primo trimestre dell'anno, dice Eurostat, sono state 287.000 contro 426.000 nell'ultimo trimestre dell'anno 2015. Tuttavia l'Italia è al secondo posto dopo la Germania per domande ricevute. Secondo Frontex, come sbarchi siamo in linea con l'anno scorso. Il direttore esecutivo dell'Agenzia Europea tuttavia ha chiesto a tutti gli stati di fornire imbarcazioni per dare pieno supporto all'Italia per la rotta del Mediterraneo. Quella dell'Egeo invece è praticamente chiusa. Grazie all'intesa Europa-Turchia gli arrivi si sono ridotti del 60%. Possibile replicare questo accordo con i paesi africani? Il Migration Compact che Renzi ha proposto, ci ha detto Never Mimica, commissario europeo allo sviluppo, va in questa direzione. Gli aiuti possono servire a gestire i flussi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E si è aperto oggi il Forum Internazionale di San Pietroburgo. Al padiglione Italia in Russia sono stati firmati tra aziende italiane e russe accordi e anche lettere di intenti. Appena inaugurato, sono già 9 gli accordi siglati al padiglione italiano del Forum Economico di San Pietroburgo, dove l'Italia è ospite d'onore e il premier Matteo Renzi sarà accolto domani dal presidente russo Vladimir Putin. L'ambasciatore italiano in Russia, Cesare Maria Ragaglini. Questo è un mercato che tiene, un mercato importante, un mercato di 150 milioni di abitanti. Altre intese e memorandum saranno firmati domani, con un controvalore complessivo di 1,4 miliardi di euro per i contratti in via di perfezionamento, tutti esempi di Made with Italy. Vittorio Torrembini è il vicepresidente di GIM Un'Impresa, associazione di imprenditori italiani in Russia. Soprattutto sono interessanti le controparti russe, perché stiamo parlando delle maggiori aziende di questo paese. Una grande effervescenza nonostante le sanzioni in vigore tra Unione Europea e Russia per la crisi ucraina. Saranno probabilmente riconfermate, ma non è escluso che dall'incontro tra Putin e Juncker proprio in questa città scaturisca qualche novità. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, San Pietroburgo. Come avete sentito, dunque, il presidente del Consiglio Renzi è partito verso la Russia, mentre in Italia c'è la volata finale in vista dei ballottaggi di domenica. Ultime ore di campagna elettorale prima dei ballottaggi di domenica. In primo piano c'è la sfida di Roma, dove ieri Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle e Roberto Giachetti del PD si sono affrontati nell'ultimo duello televisivo. Ultimi appuntamenti anche per i candidati in corsa a Milano, Napoli, Bologna e Torino nel capoluogo piemontese. Chiusura di campagna elettorale anticipata a questa sera per il sindaco uscente, il democratico Piero Fassino, e per Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle. Per il Partito Democratico quella di oggi è stata una giornata di mobilitazione anche per il Notasi Noi Mudei, con banchetti in tutta Italia per spiegare quanto fatto dal governo sul fronte delle tasse, a partire dal taglio di quelle sulla prima casa. Per la prima volta le tasse vanno giù, le chiacchiere stanno a zero. Qui non si parla di promesse ma di risultati verificabili, dice il premier Renzi. Sono solo bugie, quello del PD è l'imbroglio dei, attaccano invece le opposizioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso di pensioni, perché l'Eurogruppo, nelle sue conclusioni, dopo aver discusso del tema appunto delle pensioni in generale, senza fare riferimento ad un specifico paese, scrive in queste conclusioni: bisogna estendere la vita lavorativa e quindi rafforzare il reddito pensionistico attraverso misure che aumentino l'occupabilità delle persone più anziane e che restringano il ritiro anticipato dalla forza lavoro. La discussione era infatti sui principi comuni per rafforzare la sostenibilità delle pensioni, però visto che in questi giorni abbiamo molto parlato anche qui effetto note di pensioni, di questa ultima proposta del governo, no? del prestito da restituire in 20 anni di rate, insomma bisogna vedere come sia compatibile questa richiesta dell'Eurogruppo di restringere i ritiri anticipati dal lavoro con proposte possibili appunto italiane o del governo. Intanto non si spegne, per passare a un altro argomento, la polemica tra Pier Camillo Davigo e Raffaele Cantone sull'anticorruzione e il nuovo codice per gli appalti. Fumo negli occhi. Pier Camillo Davigo, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, bolla così il whistleblowing, la norma di tutela per i dipendenti che denunciano illeciti commessi sul posto di lavoro, inclusa nel disegno di legge anticorruzione e nel piano dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per l'ex magistrato del Pool Mani Pulite, il whistleblowing, il fischiatore, è una cosa stucchevole perché, ad esempio, i dipendenti pubblici hanno già l'obbligo di denuncia e quindi si parla del nulla. Davigo torna così ad attaccare l'ANAC, l'autorità guidata da Raffaele Cantone, dopo le bordate lanciate nei giorni scorsi da Santa Margherita Ligure dal palco del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, sempre su corruzione e codice degli appalti. Davigo non ha approfondito il tema e letto il testo, aveva replicato Cantone. E intanto, a difesa delle misure anticorruzione, si schiera il ministro della giustizia Andrea Orlando, che invita Davigo a dire se davvero tutte le norme anticorruzione sono inutili. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso all'estero parliamo ancora della strage di Orlando, perché parrebbe che non ci sia nessun legame diretto tra il killer di Orlando, che ha fatto fuori 49 persone in un locale gay, e non c'è alcun tipo di organizzazione terroristica dietro. Questo l'ha ribadito il direttore della CIA John Brennan parlando oggi in Senato alla Commissione parlamentare per l'intelligence. Nel frattempo i dati dell'FBI pubblicati da New York Times rivelano che la comunità LGBT, la comunità lesbica, gay e transgender, è la minoranza più a rischio di crimini d'odio in America rispetto a qualsiasi altro gruppo, precisando che si tratta di un trend, di una tendenza precedente alla strage di Orlando nella notte tra sabato e domenica scorsa. Negli ultimi 10 anni si legge il numero di crimini d'odio basati sull'orientamento sessuale reale o percepito delle vittime ha superato quello contro gli ebrei, addirittura il doppio di quelli compiuti contro gli afroamericani. Parliamo di Egyptair. Fonti ben informate dell'aeroporto del Cairo hanno annunciato che è stata recuperata una delle scatole nere del volo Egyptair. Vi ricordate che si è inabissato lo scorso 19 maggio nel Mediterraneo con 66 persone a bordo. La scatola contiene la registrazione vocale della cabina di pilotaggio, bisogna vedere che non sia eccessivamente danneggiata. Di nuovo in Italia con la cronaca, non risultano dispersi nell'esplosione che ha coinvolto il ristorante giapponese in pieno centro a Bologna. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine dopo i controlli fatti con le persone sul posto. Il bilancio di 7 feriti è comunque provvisorio e rimarrà tale fino alla fine delle operazioni, ma c'è fiducia. Continua intanto il lavoro dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri nel locale. Per chiudere, Euro 2016, Inghilterra-Galles 2-1, adesso ci sono in campo Germania e Polonia 0-0 per il momento. E poi avete sentito Conte che dice: il nostro obiettivo, domani torna l'Italia a giocare, è andare agli ottavi. Per domani non penso di fare cambiamenti o non cambiamenti, poi ne parleremo nel corso di Effetto Notte per capire appunto quali sono i progetti, la formazione, eccetera eccetera. Intanto vorrei dare uno sguardo, prima di aggiornare chi sta viaggiando, anche ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666, per capire insomma quali sono le vostre riflessioni sull'eventuale Brexit, che esca o che non esca la Gran Bretagna il 23 giugno con questo referendum all'Unione Europea. Quali sono le vostre riflessioni? Leggo per esempio questo messaggio, un WhatsApp, dice: se la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea è giusto che esca anche dal mercato comune, ma se la Gran Bretagna rimane deve adottare l'euro, dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Poi Carla da Roma: penso che l'Europa è come un matrimonio di persone che non si conoscono bene e non hanno un progetto preciso. Mi piace, è bella questa metafora arguta di Carla. Poi Stefano da Treviso: esce, ma la Gran Bretagna non è mai realmente entrata in Europa. Mentre Beppe dice: sono curioso di vedere cosa succede con l'uscita. Continuate con le vostre riflessioni sul referendum del 23 giugno in Gran Bretagna, sulle possibili conseguenze, quali sono i vostri pensieri, le vostre opinioni. Pagina Facebook di Effetto Notte, oppure 349-238-6666. Ci stiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre notizie, avete sentito intanto il quadro della giornata, come sempre all'inizio, la sintesi. Adesso comincerò a entrare nel cuore degli argomenti con i diversi ospiti. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o anche al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp e per gli SMS. E a proposito appunto dei vostri messaggi, la domanda che vi pongo questa sera è: a 7 giorni dal referendum, si terrà il 23 giugno in Gran Bretagna, che riflessioni avete fatto sulla Brexit, sull'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea? Luciano scrive: per quale motivo la Gran Bretagna vuole uscire dall'Unione Europea, ma possiamo noi come Italia continuare a essere considerati sempre a rischio per il nostro debito pubblico? Noi non saremo mai come la Germania, quindi dovremo sempre chinare la testa e correre, essere considerati sempre un paese di secondo livello? Sarà sempre così per noi? Domanda da $1 milioni, questa di Luciano. Poi invece Dalia dice: la Gran Bretagna può fare quello che vuole, ma l'Europa, che in caso di Brexit deve reagire in modo fermo, eliminando ogni accordo e beneficio legato all'appartenenza all'Unione. Purtroppo troppi paesi, soprattutto i nuovi, vedono l'Unione solo come un puro tornaconto e non come un senso di appartenenza e cultura comune. Secondo me, scrive Dalia, i paesi fondatori avrebbero dovuto e dovrebbero essere molto più rigorosi nell'estensione dell'Unione. Continuate con le vostre posizioni in merito alla Brexit, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero 349-238-6666. Quindi, prima di approfondire il primo argomento, vi ricordo le notizie più importanti. Sangue sulla Brexit, grida Britain First, l'uomo di 52 anni che ha ucciso a colpi di pistole con un coltello la giovane laburista europeista Jo Cox. E poi monta l'onda leave nei sondaggi, cioè lasciare, sarebbero in vantaggio coloro che vogliono la Brexit, mentre Londra lancia appelli pro Unione Europea. Il presidente della Commissione Europea Juncker dice: è da evitare l'uscita della Gran Bretagna, ma l'Unione Europea non è in pericolo di vita. In Sicilia forte scirocco e incendi, è emergenza in particolare nel palermitano. E poi per quanto riguarda le elezioni comunali, al rush finale Renzi porta il PD in piazza. Sulle tasse il Movimento 5 Stelle guarda al referendum e l'Unione Europea intanto frena sulle pensioni anticipate e Berlusconi lascia la terapia intensiva. Allarme CIA sul terrorismo, cresce il ruolo della Libia come base per le azioni ISIS e l'antiterrorismo dell'Unione Europea dice: battuti in Siria e in Iraq, i foreign fighters torneranno, attenzione, in Europa. Migranti, record di salvataggi, l'Italia seconda per le domande d'asilo. E poi tante persone che hanno tentato la traversata nel Sahara muoiono in 34, in 20 erano bambini. Egyptair, recuperata la scatola nera dell'aereo che si era inabissato nel Mediterraneo il 19 maggio. E poi a Euro 2016, domani Conte cerca il bis. Just before 1 o'clock today, Jo Cox, MP for Batley and Spenborough, was attacked in Market Street, Bristol. I am now very sad to have to report that she has died as a result of her injuries. Avete sentito questo annuncio della morte della laburista Joe Cox. La Gran Bretagna in questi giorni è grande protagonista, ne stiamo parlando da diverso tempo, per la fatidica data del 23 giugno, no? Il popolo britannico dovrà esprimersi sulla volontà o meno di restare in Gran Bretagna, la cosiddetta Brexit. Oggi però appunto la Gran Bretagna è stata protagonista per un fatto terribile, una tragedia che è piombata proprio sulla campagna relativa al referendum. Una deputata del Partito Laburista, Joe Cox, 41 anni, filo europeista, è stata brutalmente aggredita a Birstall, nel West Yorkshire, dopo un incontro con i suoi elettori. Un attacco a colpi di arma da fuoco e con un coltello, sferrato da un uomo di 52 anni al grido di Britain First, Gran Bretagna prima di tutto, a pochi giorni appunto dal referendum. L'uomo è stato arrestato, la polizia per ora è ancora cauta sul movente e Cameron, il primo ministro, ha detto: la morte di Joe Cox è una tragedia per la Gran Bretagna. Ne parliamo con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore della Gran Bretagna. Leonardo, quindi ancora il movente non è chiaro, e poi alcuni testimoni dicono che avrebbe gridato così: la Gran Bretagna prima di tutto. Non è ancora sicuro che le cose siano andate così? No, non ci sono assolutamente certezze, anche se sembra che sia così, cioè i vicini dicono: questo è un personaggio molto solitario, un uomo che conduceva una vita molto riservata, come dire, vicino di casa, anonimo, insospettabile, che poi impazzisce, perché questo è chiaramente un gesto di un isolato, insomma, potrebbe essere un gesto isolato, Leonardo, questo. Esatto, cioè, esatto. Certamente una cosa premeditata, ma non un gesto isolato di un... si inserisce in questa atmosfera pre-referendaria abbastanza pesante, divisiva, che ha diviso un paese, che ha diviso un partito, ovviamente incomprensibili alla gente. Qualcuno dice, Leonardo, per esempio, ma secondo voi un sostenitore della Brexit in crescente vantaggio, che però avrebbe dovuto farlo, c'è puzza di intelligence? Mi sembra un po' così, no, una tesi complottistica questa, potrebbe essere. Questa è una complottistica che non, cioè, che almeno io non condivido assolutamente. Non ha fondamento, insomma. No, nessun. Senti, tipo di fondamento. Che personaggio era questa? In realtà, quello che poi è successo, cioè la considerazione. Ti sentiamo molto male, Leonardo. Ecco, malissimo del tutto, è proprio caduto del tutto. Allora c'è qui invece Sergio Nava, Sergio qui con me. Questa tragedia potrebbe avere secondo te delle ricadute sulla campagna al momento per il referendum, che mi pare sia stata sospesa, no? Sì, è state... Poi sul referendum. Tutte le campagne ufficiali sono state sospese, i partiti hanno sospeso la campagna, Cameron ha annullato un comizio a Gibilterra. Difficile dirlo adesso, però è chiaro che se la chiave... allora, premettiamo una cosa, la Gran Bretagna non è abituata a campagne così roventi. Questa è una campagna veramente che ha superato ogni livello di scontro, è veramente, arrivando anche a... Beh, la considero come una questione epocale, non solo loro, ma l'Europa stessa, no? Al di là di quelle potrebbero essere le eventuali... Però siamo arrivati alla campagna del rimanere, che ormai spaventa ogni giorno i britannici, dicendo: sarete più poveri, entreremo in recessione, questo è un po' il messaggio che passa, sarà una catastrofe. L'altra campagna che invece è molto divisiva, perché è un noi contro un loro... No? Noi britannici contro il resto dell'Europa e gli altri, quindi con uno sfondo molto razzista, su questo bisogna dirlo, toni molto accesi, quindi qualcuno potrebbe cominciare a chiedersi: non abbiamo esagerato, e questo eccessivo dividere, no, il noi contro il loro, può avere poi effetti deleteri e tragici, come abbiamo visto oggi. Nella tragedia, se venisse fuori che questo squilibrato avesse veramente agito per motivi, come dire, legati proprio collaterali, possiamo dire, al referendum, cioè uno squilibrato che in piena pazzia, in pieno delirio, attacca una deputata filo europeista, beh, allora qualcuno forse finalmente comincerebbe a usare un po' la testa e dire: forse abbiamo esagerato, abbassiamo i toni, perché è veramente particolare, è veramente strano vedere un'Inghilterra con toni così arroventati politicamente. È un'epoca, come dire, nuova politicamente anche per loro, e probabilmente non sono abituati. Un'ultima cosa, vedo naturalmente sul fronte del no all'uscita c'è Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che dice ancora una volta esortato i britannici a restare nell'Unione Europea, spiegando loro che se decidessero di uscirne ne perderebbero i benefici passati e futuri. Poi c'è il Fondo Monetario Internazionale che oggi ha detto la crisi dei rifugiati ha messo alla prova l'area euro, le divisioni e le tensioni emerse potrebbero essere esacerbate da una Brexit che contribuirebbe ad aumentare l'euroscetticismo e l'incertezza. Il ministro dell'economia Padoan, il nostro, dice l'Italia è esposta a rischi in quanto fa parte dell'Unione Europea, ma non c'è un particolare paese a rischio, il nostro paese non è particolarmente a rischio più di altri. Diciamo che se guardiamo le borse non sembra che un paese sia meno a rischio degli altri, anzi Milano è quella che ultimamente negli ultimi giorni ha perso forse... Tiene un po' di più, dici? No, diciamo ha perso un po'... più delle altre anche, basta vedere oggi, ha perso più delle altre, quindi non sono così sicuro che l'Italia sia più a riparo degli altri paesi, perché lo shock, almeno nell'immediato, sarebbe abbastanza generale. Quello che comunque vorrei dire è che al di là dell'aspetto economico, sul quale faremo i conti il 24 giugno se ci sarà una Brexit effettivamente, con le reazioni dei mercati e col periodo di incertezza che ne seguirà sia per la Gran Bretagna, sia per l'Europa che perde diciamo un pezzo abbastanza importante, no? La quinta economia mondiale, comunque la sede della finanza a livello europeo. Quello che forse è un po' sfuggito da parte nostra è che questo referendum alla fine nasce con l'intenzione di chiarire forse una volta per tutte il rapporto della Gran Bretagna con l'Unione Europea, il rapporto si trascina con difficoltà e stancamente almeno da Margaret Thatcher, che fu la prima a dire voglio i soldi indietro e aprire un fronte di costante dialettica con l'Europa, e questo lo vediamo molto bene nel Partito Conservatore di David Cameron, dove c'è una fortissima componente anti-europea, quindi è anche un regolamento dei conti interno a un partito spinto dall'esterno. Mentre lui è fautore del... E poi c'è l'altro aspetto che forse ci fa capire perché il restare è così in svantaggio, perché il restare non vende un'idea di Europa, non vende una passione politica verso l'Europa, il restare vende restiamo in Europa perché ci conviene economicamente, siamo britannici, dobbiamo scegliere tra due alternative, scegliamo quella che alla fine per il nostro portafoglio, per il nostro benessere ci va bene. Quindi è una campagna senza anima e senza passione fondamentalmente, è una campagna che dice l'Europa ci serve per essere più influenti, per essere più benestanti eccetera, ma non, alla fine il messaggio, e cioè l'Europa ci va bene, non emerge. Tra l'altro, Sergio, ricordo che da domani Radio 24 dedicherà ampio spazio al referendum sul Brexit, con vari viaggi al termine del giornale radio delle 7, poi il 23 giugno, giovedì 23 giugno, c'è uno speciale in diretta dalle 22 all'una, quindi avrete modo di capire un po', di farvi una vostra opinione. Ancora qualche messaggio. Carlo da Bassano dice: fino a che punto si sono spinti i sostenitori del no all'uscita della Gran Bretagna a fare uccidere un deputato Labour? Ma per il momento, insomma, può essere, come dicevamo, un folle isolato, come si spera naturalmente, al di là della tensione di questa campagna. Luisa scrive: l'Europa come la sognavamo sarebbe finita, Germania più Francia, poi attori ininfluenti come Italia e Spagna, tanti paesi che allo spirito europeo sono estranei, tutte le nuove adesioni, speriamo davvero di no. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Ora invece torniamo sulle questioni proprio specificatamente italiane, sui nostri problemi d'estate, spesso è così, anche se qui si indaga per diciamo una colpa per questioni dolose, una giornata di fuoco in Sicilia in tutti i sensi si può dire, perché la provincia, anzi in senso letterale proprio la provincia di Palermo, brucia da oggi pomeriggio complice il vento di scirocco, le temperature sono diventate tropicali, si sono raggiunti 45 gradi e più, decine di roghi sono divampati in diversi comuni lungo il litorale palermitano e i roghi più vasti sono avvenuti nell'area orientale della provincia di Palermo, nel territorio di Cefalù. Ne parliamo con Nino Amadori dalla Sicilia. Nino, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Quindi la situazione adesso qual è? Perché sentivo che era difficile anche utilizzare i Canadair per via di questo vento molto forte, addirittura dei voli all'aeroporto di Palermo sono stati bloccati, cancellati. Allora, in questo momento io sono appena uscito da Cefalù e devo dire che la temperatura è un po' scesa e il vento si è calmato e quindi... questo diciamo aiuterà questa sera, aiuterà gli interventi, perché la situazione è, devo dirti, ho fatto tutta la statale praticamente dalla pieno della provincia di Messina da Sant'Agata di Militello, da Rocca di Caprilone, l'autostrada è chiusa, ho fatto tutta la statale e c'è praticamente un incendio ogni chilometro, brucia dappertutto, a Santo Stefano le fiamme sono arrivate quasi dentro il paese, e qui a Cefalù è un caos, perché il paese, comunque la parte alta del paese, quella dove c'è anche l'ospedale, è chiusa al traffico ed è il punto, uno dei punti molto critici in questo momento. Dicevamo, Nino, che si segue la pista dolosa, no? Perché strano che siano spuntati questi fuochi contemporaneamente in vari punti distanti tra loro. Ma, guarda, non è da escludere, perché una cosa che ho notato, che sembra chiara, è che sono tutti sulla costa, intanto. Non sono, anche se in alcuni casi si va a mezza collina, ma non parliamo di incendi nel pieno bosco, cioè, come si potrebbe immaginare, nel pieno delle Madonie o nel pieno del bosco del Parco dei Nebbi. Siamo sempre sulla fascia costiera, pensa che ci sono anche fiamme in riva al mare in alcuni punti, quindi questa è una cosa strana. Quindi può essere che abbiano scelto in maniera strategica di dare fuoco e di appiccare il fuoco in alcune zone piuttosto che in altre. L'ipotesi l'ha fatta del resto Manfredi Borsellino, che è commissario qui a Cefalù, stanno verificando, c'è un'inchiesta della procura, non sarebbe la prima volta, sto parlando dell'area di Cefalù, perché poi nell'altra parte c'è fuoco a Monte Pellegrino, a Palermo, c'è stato un incendio a San Martino delle Scale, che è praticamente tra Palermo e nella parte alta verso Monreale, c'è stato un incendio a Partinico, ci sono incendi nell'area di Ebrodi, nella zona tra Capodorlando e Randazzo, cioè sull'asse la statale che collega la Tirrenica con l'Etna. Non credo che siano tanto diffusi i focolai dei piromani, però sicuramente una mano ci deve essere, sicuramente. Nino Amadore, speriamo un'unica. Sì, ecco, speriamo che comunque nelle prossime ore si riesca almeno a tenere la situazione sotto controllo, perché appunto autostrade chiuse, scuole vacate, eccetera, la situazione è piuttosto grave. Grazie Nino Amadore dalla Sicilia. Grazie. Ciao Nino. Ancora i vostri messaggi prima di questa pausa di creazione. Dice questo ascoltatrice: deve uscire la Gran Bretagna, perché l'Unione Europea è un progetto criminale, prima si indebolisce, prima si elimina. La Gran Bretagna ha solo svantaggi a stare dentro, commercialmente non ha bisogno dell'Europa, incide solo al 10%, dice questo ascoltatore. Simone: preferirei che rimanesse in Europa, ma convinta e disponibile ad andare verso una maggiore integrazione. Se vince il sì con il 51% e il paese blocca comunque l'Unione per i prossimi 20 anni, non sarebbe un bel risultato. Queste quindi le vostre letture, le vostre opinioni circa la Brexit e il referendum che si voterà in Gran Bretagna il 23 giugno. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso gli SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia. In poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 insieme alla cantante Chiara De Lo Iacovo. Notte prima degli esami. Ore in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Maturità. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.net. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Torniamo insieme quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con le notizie. Roberta Giordano sempre con voi, argomenti approfonditi. Avete sentito il riassunto della giornata, poi abbiamo parlato lungamente della tragedia che si è abbattuta sulla campagna per il referendum del 23 giugno in Gran Bretagna, con l'uccisione da parte di un uomo. Non si capisce se è uno squilibrato, se c'era altro dietro, di questa giovane deputata, Jo Cox, laburista, convinta europeista appunto in Gran Bretagna. Adesso cambiamo argomento, fra poco vi ricordo nuovamente i fatti principali, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, intanto continuate con i vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero per gli sms e i WhatsApp che è il 349-238-6666. Che riflessioni avete fatto in questi giorni e a 7 giorni dal referendum in Gran Bretagna sull'eventuale Brexit? Scrive questo ascoltatore: non sono i popoli a dover uscire dall'Unione Europea, dovremmo cacciare i banchieri che la dominano. Quando c'era il fascismo mica siamo emigrati tutti. Vabbè, una comparazione un po' particolare. Clotilde dice: se l'uscita della Gran Bretagna può portare a un ripensamento dell'Unione riducendo il numero dei paesi aderenti e riportandolo al nucleo originario e che non si riduca a un mero aspetto economico ma a un'unione dei popoli con interessi e cultura comuni, beh allora ben venga, dice Clotilde. Intanto allora vi ricordo i fatti principali e poi torniamo sugli altri argomenti. Gran Bretagna, appunto, la deputata laborista 41enne Jo Cox è stata uccisa a colpi di pistola e a coltellate. È arrestato l'aggressore, un uomo di 52 anni che gridava Britain First. Brexit, cresce nei sondaggi il numero dei favorevoli. Londra lancia appelli pro Unione Europea. Juncker, presidente della Commissione Europea, dice la Brexit è da evitare, ma l'Unione Europea non è in pericolo di vita. Gli incendi in Sicilia, ne abbiamo appena parlato. Emergenza nel palermitano, chiuse autostrade, scuole evacuate, temperature record. Si indaga sull'origine dolosa delle fiamme. Terrorismo, allarme della CIA, cresce il ruolo della Libia come base per le azioni ISIS e secondo l'antiterrorismo europeo, battuti in Siria e in Iraq, i foreign fighters potrebbero tornare in Europa. Egypter, recuperata la scatola nera con le voci registrate in cabina. Migranti, 13.000 persone soccorse in una sola settimana a fine maggio, Frontex chiede quindi più aiuti per l'Italia. E a proposito di migranti, a Rosarno in Calabria c'è la nostra Raffaella Calandra. Rosarno è dove c'è quella che è stata definita più volte la tendopoli della vergogna, e San Ferdinando più precisamente, per la difficile situazione dei braccianti agricoli stranieri. Una vicenda che ha conosciuto varie tappe, anche tragiche, a partire dal 2010 sino alla morte qualche giorno fa, vi ricordate, di un immigrato ucciso da un carabiniere che si era difeso dall'aggressione di questo migrante, e poi la manifestazione di piazza. Dopo, da un po' in realtà si parla di smantellare questa tendopoli. Raffaella Calandra, oggi tra l'altro c'è stato un vertice tra gli enti locali, no, lì a Rosarno? Sì, il vertice, buonasera a tutti, ciao, è Raffaella. Stato nel comune di San Ferdinando, che è praticamente a pochissimi chilometri da Rosarno, e c'è stata una riunione con rappresentanti della prefettura, di tutti gli enti locali e delle persone che lavorano nella tendopoli di San Ferdinando, che è stata allestita dopo la rivolta 6 anni fa a Rosarno, quindi con uno spostamento da Rosarno a San Ferdinando. Sono due tendopoli diverse, e ecco, da questa riunione è stato deciso che nel giro di una decina di giorni la tendopoli dovrà iniziare ad essere smantellata. Al suo posto verrà costruita una nuova tendopoli, ma più piccola, con massimo 400 persone, e tutte le altre persone, tutti gli altri braccianti dovrebbero essere distribuiti tra i 33 paesi della piana di Gioia Tauro, in modo tale da non creare più queste situazioni ghetto come quella della tendopoli appunto di San Ferdinando, dove sono stata questa mattina e dove si respira una, oltre che temperature assurde all'interno di queste tende, di queste baracche arroventate dal sole, si respira un clima di fortissima tensione dopo l'uccisione del giovane maliano, anche perché la versione che circola all'interno del campo è ben diversa da quella ufficiale data dalla procura e dai carabinieri, e per di più questo è il momento più difficile. Qual è la loro versione, Raffaella? La loro versione è che erano stati chiamati i carabinieri perché c'era una persona che stava dando un po' in scandescenza in una delle baracche adibita a bar, perché dentro questa tendopoli c'è una sorta di economia autosufficiente, c'è tutto, e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine, hanno detto perché ci fidevamo di loro per chiedere sicurezza, dopodiché erano in 7, non si capisce se solo carabinieri o anche poliziotti, e a un certo punto appunto dice che erano soltanto loro all'interno di questa baracca con questo giovane maliano che avrebbe tirato fuori un coltello, e quindi lo sparo che poi è stato fatale. Quindi, come dire, c'è un po' una dinamica ancora da mettere a fuoco, chiarire bene su Raffaella, cosa sia successo, però capirai come gli animi fossero molto, certo, agitati. Per chiudere proprio, Raffaella, senti, quindi una soluzione si sta cercando, quando dovrebbe essere smantellata questa tendopoli e in che tempi quindi dovrebbe? In una decina di giorni dovrebbe cominciare il lavoro di smantellamento, anche perché in questo momento gli ospiti sono al minimo, diciamo, perché non c'è, è terminata la stagione della raccolta degli agrumi. E poi progressivamente la costruzione di una nuova tendopoli in un campo lì accanto, e poi a fine mese, il 27, ci sarà un altro vertice per stabilire un po' la redistribuzione di tutti quanti i lavoratori tra i 33 paesi della piana di Gioia Tauro. Grazie Raffaella Calandra dalla Calabria. Ciao, da Rosarno. Ciao Raffaella, buon lavoro. Intanto, prima di aggiornare chi sta viaggiando, Massimo da Roma dice: se la Gran Bretagna uscirà, aprirà la strada al referendum in altri stati, la politica teme che i cittadini si esprimano. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice. Sto leggendo ancora i vostri messaggi sulla Brexit, le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, al 349-238-6666 per WhatsApp, SMS. Selene scrive: spero che la Gran Bretagna esca, sarebbe una bella scossa per la politica economica germanocentrica e schizofrenica dell'Unione. Inoltre, tutti quelli a favore dello stay, cioè del rimanere della Gran Bretagna, appartengono a classi sociali elevate, chissà perché, dice Selene. Vi ricordo intanto i titoli principale: sangue appunto sulla Brexit, un uomo in Gran Bretagna al grido di Britain First, prima la Gran Bretagna, ha ucciso con la pistola e ha coltellato una giovane laburista, Jo Cox, convinta europeista. Ancora bisogna chiarire il movente. Monta l'onda intanto a favore della Brexit nei sondaggi, Londra lancia appelli pro Unione Europea e Juncker, presidente della Commissione Europea, dice da evitare questa uscita, ma non è l'Unione Europea in pericolo di vita. Forte scirocco incendi, è emergenza nel palermitano con autostrade chiuse e scuole evacuate. E poi comunali al rush finale, elezioni comunali, ballottaggi domenica, Renzi porta il PD in piazza sulle tasse, il Movimento 5 Stelle guarda il referendum e intanto l'Unione Europea frena sulle pensioni anticipate. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Simona. Cognome: Bonafè. Età: 42 anni. Nata: Varese. Eletta in Collegio Italia Centrale. Con quanti voti? 288.000 preferenze, più o meno. Partito politico: Partito Democratico. Gruppo politico: Socialisti Democratici. Segni particolari: grande ottimista. Quante lingue parla? Italiano, chiaramente, inglese e francese. Competenze europee, 10 parole. Membro della Commissione Industria, Ambiente ed Energia e vicepresidente dell'Intergruppo sugli investimenti a lungo termine. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Cresce il fronte Brexit, vola lo spread, borse ancora giù. Il referendum pesa sul mercato, questione economica o politica? Direi entrambe, i due ambiti sono strettamente legati e la decisione che verrà presa dai britannici il 23 giugno avrà delle ricadute sia di natura politica che economica e purtroppo sia sulla Gran Bretagna che sull'Unione Europea. L'unico dato certo, mi permettete il gioco di parole, è l'incertezza e lo dimostrano appunto la volatilità dei mercati, gli listini al ribasso, la svalutazione della sterlina e vediamo cosa succederà. Se l'Inghilterra esce dall'Unione Europea. Questo intanto premetto che è lo scenario che non vorrei proprio vedere, perché ritengo che il posto migliore per la Gran Bretagna sia l'Europa. Concedetemi un altro gioco di parole, cioè se il Regno Unito dovesse optare per la Brexit servirà invece più Europa, certo un'Europa più efficace, basata su un'integrazione più stretta e reale e per quanto forte e sconvolgente l'impatto di una possibile Brexit non dovrà rappresentare l'ostacolo per una maggiore integrazione europea. A Parigi ritorna l'incubo jihadista, problema di intelligence o culturale? Anche qui il problema è su entrambi i fronti. È evidente che a livello sia europeo che nazionale il lavoro delle forze di intelligence deve essere potenziato con maggiori capacità di prevenzione e di risposta rispetto a questi fenomeni che è evidente rappresentano oggi una minaccia all'interno di tutti i paesi europei. Però ecco, non solo prevenzione, non solo sicurezza, c'è anche tutto il tema culturale. Da questo punto di vista trovo l'impostazione del governo italiano molto intelligente. Un euro sulla sicurezza, un euro in cultura. Gli esperti dicono che in Francia sono pronti a colpire in centinaia. L'Unione Europea cosa può fare e cosa fa? C'è una proposta della Commissione in tema proprio di lotta al terrorismo che il Parlamento europeo vuole rafforzare. Però dobbiamo essere molto chiari, chiedere agli Stati di uniformare i sistemi di intelligence, come andremo a chiedere con questa proposta, significa anche però limitare la sovranità nazionale. E questo lo dico perché le forze populiste, al contrario, ritengono che la ricetta giusta sia proprio quella di abbattere l'Europa e tornare agli Stati nazionali. Perché si è candidata? Ma molto semplice, perché credo nell'Europa e voglio dare il mio contributo. Cosa ha pensato quando è stata eletta? Che è una bella opportunità, ma in un momento molto difficile. La sua battaglia vinta? Piano degli investimenti e flessibilità, che sono le battaglie che il mio gruppo politico ha portato avanti per cambiare la politica dell'austerity. Tra 10 anni l'Europa sarà? Sarà il nostro lasciapassare per stare da protagonisti sullo scenario globale, nessun dubbio. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.